Sempre raccordo anulare, sempre 7 agosto. Sto ascoltando l'ultimo album degli Steely Dan che si chiama Everything Must Go. È bellissima la storia di questo gruppo, anche se la parola gruppo è un po' esagerata, visto che tutto sommato si tratta di due grandi musicisti che si circondano di session man straordinari attraverso le varie epoche e vari generi musicali. E questo album, devo dire, ha oltre 30 anni, 34 anni dal primo album degli Steely Dan, Can't Buy a Thrill, e secondo me è uno dei migliori che abbiano fatto, non dico ai livelli di Asia, ma insomma quasi. E in Italia forse questo duo composto da Donald Sagan e Walter Becker non è stato apprezzato a dovere. C'è stato un po' di interesse retro da quando uscì quel singolo di Donald Sagan, quell'album altrettanto valoroso e pluridecorato che si chiama The Night Fly. C'è stato un interesse a ritroso, dicevo. Cioè, molte persone hanno cominciato a comprare i vecchi album degli Steely Dan e io sono tra questi. Poi ci fu quella dolorosissima interruzione dopo Gaucho, durata troppi anni, una grande attesa, poi ci fu l'uscita di questo Two Against Nature che alla fine ci siamo fatti un po' piacere, sì, un buon album indubbiamente, però la convinzione tra tutti gli aficionados era che magari poteva trattarsi del canto del cigno, visto che non c'era più la verve degli anni precedenti, anche proprio il modo anche di registrare l'album era troppo asettico, era diventato esageratamente digitale. Ecco, con Everything Must Go siamo rimasti veramente tutti a bocca aperta, perché per cominciare hanno ricominciato a registrare con la vecchia tecnica, che comunque aveva prodotto dei capolavori del sound engineer.